24 mattino. Buongiorno, buongiorno, buon venerdì da Giulia Crivelli, bentornati, benvenuti a 24 mattino. Lo dico perché sicuramente cominceranno ad arrivare altri messaggi. Lunedì torna Alessandro Milan e intanto per oggi noi abbiamo altri due ospiti per questa prima parte di 24 mattino, due ospiti che sono veramente contenta di avere perché le ho seguite da telespettatrice e da navigatrice di internet, e ora le ho l'opportunità proprio di sentire le loro voci. Sono Chiara Geloni, giornalista. Buongiorno, buongiorno Chiara, che ha diretto per molto tempo UDEM, che era la TV del Partito Democratico, e Silvia Brasca, che invece è una giornalista della 7, prima di Canale 5, poi della 7. Io, buongiorno. E, come ho detto ieri, insomma, a rischio di sembrare un po' monotona, c'è davvero anche sui giornali, come vedremo dopo, una valanga di articoli, di cronaca, di retroscena su quello che sta succedendo a Roma. Non possiamo non parlarne, anche se forse appunto sono molte le ipotesi che possiamo fare, perché in realtà ieri per esempio Grillo non ha detto una parola dopo invece il comizio Fiume di mercoledì sera a Nettuno. Siccome ho visto Chiara proprio ieri sul suo blog, a me m'hanno rovinato i cantautori, ha fatto questo post, la grillizzazione di tutti, non solo del PD, alla luce di quello che magari, non so se tu l'hai scritto prima o dopo, le ultimissime notizie sulle dimissioni dell'assessore Lampo. Prima. Non so, quindi appunto volevo, magari non tutti l'hanno visto, io ho trovato, è diviso per punti e l'ho trovato molto interessante, come dici tu, un po' per riassumere tutto quello che si è sentito in questi giorni. Quindi se vuoi, insomma, dirci un po' la tua opinione su quello che sta succedendo anche con quest'ultimissima novità. Ma no, io quello che ho messo nel blog è un punto di vista abbastanza trasversale, non era tanto un'analisi di quello che sta succedendo nel Movimento 5 Stelle, argomento di cui io non sono un'esperta, non sono un'analista specializzata come tanti colleghi bravissimi che scrivono i pezzi che leggiamo tutti i giorni. Mi sembra però che nel raccontare questa vicenda un po' a qualche volta si rischi di perdere di vista il punto di vista dal quale giudichiamo il Movimento 5 Stelle, come se la loro vittoria politica nelle molte elezioni, la loro ascesa, diciamo, negli ultimi anni, avesse condizionato il dibattito rendendoci tutti un po' grillini. Allora, io che non sono grillina, che non voto il Movimento 5 Stelle, trovo che rimproverare al Movimento 5 Stelle cose che non condividiamo, certo, come per esempio l'idea, non so, dello streaming, no? Sì. Cioè, molti in questi giorni hanno detto: ma perché le riunioni che fate non sono in streaming? Avete detto che bisogna fare tutto in streaming. Ma è ovvio che quella dello streaming è una stupidaggine. Lo dice una che, diciamo, nel periodo in cui ho lavorato a UDEM, come ricordavi, certo, trasmettevamo in streaming molte riunioni del PD, quasi tutte. Però è ovvio che è una specie di capriccio infantile pensare che tutto in un partito venga deciso, certo, in streaming, no? È chiaro che le riunioni in streaming servono a rendere trasparente, e questo è il pregio, la trasparenza, non lo streaming. Infatti, come dici tu, delle decisioni che vengono prese ovviamente dal gruppo dirigente, mm-hmm, e magari quindi, prima vengono discusse, vengono elaborate, certo. E quindi se il gruppo dirigente dei grillini del Movimento 5 Stelle in qualche modo si scontra con alcuni aspetti ideologici, propagandistici della propria posizione, e fai conti con la realtà, a me questo sembra una cosa positiva. Non dobbiamo rimproverargli di essere coerenti, certo, con delle cose sbagliate. Scoprono di aver fatto degli errori e noi quasi gli rimproveriamo di non tenere la loro posizione iniziale. Esatto, quando... esatto. E a Silvia volevo chiedere, perché un altro punto che c'è nel tuo post è la questione che Di Maio all'ultimo momento ha dato buca, scrivi tu, a Semprini, il che conduceva questa nuova trasmissione che, insomma, ha preso un po' il posto di Ballarò su Rai 3. Era appunto mercoledì, era il giorno del disastro che poi si è concluso con il... adesso arriveranno una valanga di messaggi perché non dovevo chiamarlo disastro, ma che poi si è concluso con il comizio di Nettuno, e Di Maio, l'abbiamo detto anche noi qui, giustamente ha detto beh, forse devo avere delle priorità, e ha appunto dato buca a Semprini. Silvia, tu che lavori in televisione, come ti è sembrata questa decisione? Cioè, se tu fossi stata nei panni di Semprini, tutto piccato perché appunto ha avuto questo rifiuto all'ultimo, a me sembra insomma ragionevole. Beh sì, insomma, ragionevole sì, non so chi poteva star peggio quella sera, però sai, un lancio di una la prima puntata, tra l'altro isolata perché non c'è ancora Floris, il nuovo giornalista, la nuova rete, la nuova direttrice, un bel colpo che era Di Maio, insomma è un buco pesante. Brucia, altro che certo, stizza, insomma, certo. Altro che stizza. E certo, Di Maio sarebbe stato imbarazzante, poi c'è stata quella grande catarsi, appunto era martedì, questa martedì sera del mercoledì, io penso che quella serata di Nettuno sia stata insomma una dei passaggi fondamentali, insomma, delle piazze grilline, no? Che loro appunto vivono di web, però poi hanno avuto nella piazza, nella cosa primordiale della politica, certo. Alcuni momenti davvero fondamentali, da Bologna a San Giovanni, e adesso avremo anche questa piazza di Nettuno. Io vedo un frammentarsi del movimento, cioè io penso che in questo momento ci sia Roma, cioè l'amministrazione romana sia come spuntata dal movimento, cioè è lì in una bolla un po' isolata, con Grillo che non si fa vedere a Roma, ma ricompatta il movimento in una piazza qualche chilometro da Roma. Poi il movimento, che prima era come una specie di blob unico, adesso è proprio frammentato, cioè i romani, Grillo con quello, il direttorio così come adesso, il blog è un'altra partita, il blog di Grillo diventa un'altra partita, e c'è la grande assenza, che si nota, inutile dirlo, quasi certo, banale, di Casaleggio, cioè si capisce adesso probabilmente qual era il suo ruolo, però mi sembra appunto quello che riportano oggi i giornali, no? di Grillo che avrebbe detto della Raggi quelle pazza per il recupero di Marra. E mi sembra che ci sia forse un tentativo a questo punto di un po' di isolarla, di isolare Roma e di tenerla insomma un po' a lato di quello che è comunque il movimento nazionale. Certo. A Chiara volevo chiedere, a Chiara Geloni, che si è occupata per tanto tempo della comunicazione del PD, questa innanzitutto un'opinione appunto su questo ulteriore apparente terremoto interno con le dimissioni del mini direttorio romano di ieri, e anche questa strategia, cioè una sera occupi praticamente tutto lo spazio mediatico perché sei su internet, sei su YouTube con un video, e poi questo comizio che sembrava veramente uno spettacolo, nel senso anche se vogliamo migliore del termine di Nettuno, il giorno dopo silenzio assoluto e soltanto retroscena, anche come strategia di comunicazione non so se sia pensata, però sembra un po' bizzarra, si passa un po' dai due estremi, da una comunicazione urlata a una, e poi un giorno di quasi di silenzio tombale da parte di Grillo. Sì, verrebbe da dire che Grillo non può fare quelle cose lì tutte le sere, anche fisicamente mi sembra difficile da reggere, no? Io adesso non so se, ripeto, lo dico da osservatrice, certo, che non conosce proprio le segrete cose, ma mi sembra che nel suo modo, nella sua maniera un po' dilettantesca, se vogliamo dire, un po' improvvisata, però la Raggi sta reggendo la botta in una maniera anche sorprendente, perché sì, è vero, è isolata, no? Sono d'accordo con quello che diceva la collega, ma è anche vero che la Raggi dice di no ad alcune richieste del movimento, resiste, si è messa anche diciamo contro Di Maio, nel senso che ha smascherato il fatto che Di Maio non avesse titolo per rimproverarla di aver taciuto sull'avviso di garanzia, con un certo coraggio si è messa contro il nuovo leader in ascesa del movimento, e la partita l'ha vinta lei, si è messa contro il direttorio romano, anzi il mini direttorio, e il direttorio si è dimesso. E adesso forse adesso... anche contro con questa decisione, vedremo se succederà, di richiamare Marra, si mette proprio contro, anche contro Grillo, quindi... Infatti, il sindaco è lei, lei ha le carte in mano, perché possono anche espellerla dal movimento o sospenderla, come hanno fatto con Pizzarotti, ma non è che possono cacciarla dal posto dove sta. Quindi lei resiste e riesce a resistere. Attenzione, anche questo, lo dico senza voler passare per una eccessivamente ottimista, vedo la gravità di questa situazione, naturalmente capisco che le dimissioni del mini direttore la lasciano sola, eccetera, eccetera, però è un elemento di normalizzazione anche questo, perché... cos'è questo mini direttorio? Che roba è? Sì, era sembrato molto strano fin dall'inizio, cioè, alimentava... Che sia il sindaco a rispondere ai cittadini di quello che fa. Ora, non sta dando risposte ai cittadini soddisfacenti la Raggi, ma che rivendichi lei il diritto di sbagliare, sbagliare. Ecco, questo è giusto, questo è normale, questo è nello spirito della legge sui sindaci che è in vigore in Italia. Ecco, a non proposito nei di direttori nella di, legge. Insomma, di dissensi interni, il PD insomma ha i suoi problemi su questo fronte. Allora, magari anche per cambiare un po' argomento, anche perché potremmo andare avanti veramente per ore a cercare di, come dicevi tu, pur non essendo esperte né attiviste, di cercare di interpretare quello che succede. E sentiamo magari un audio, perché Massimo D'Alema ieri, a proposito di linee di partito, ha detto sul famoso famigerato referendum costituzionale si può andare contro la linea di partito. Sentiamolo. Alla Costituente, quando si votò sull'articolo 7, un deputato comunista si alzò e fece la dichiarazione di voto contro la posizione del partito. Palmiro Togliatti, che era Palmiro Togliatti, non disse: ma come? Come ti permetti di essere contro il partito? Diciamo. Prese atto che sulla Costituzione c'è libertà di coscienza quando sono in gioco valori fondamentali della vita democratica. Ecco, volevo magari chiedere a Silvia, che so che sta seguendo molto D'Alema e comunque il tema, come forse stiamo facendo tutti, di questo avvicinamento al referendum. Questo modo che D'Alema non ha mai abbandonato, anche di metterla molto sempre sull'ironia, c'è sempre una nota di, anche qui, no, ridacchiava, che verrebbe da dire cosa c'è da ridere. Come ti sembra, sia dal punto di vista, appunto, come sta procedendo questa campagna di D'Alema, tu che lo segui da vicino e magari noi invece, che io personalmente, che posso poi magari solo leggerne le cronache? Guarda, ieri sera ero appunto al Festival dell'Unità di Milano, dove si parlava di Europa, e quando appunto si è detto parleremo di Europa, un brusio nella sala, perché nessuno voleva sentire parlare di Europa, e i migranti, certo, avrebbero preferito sentire parlare subito di referendum. No, c'è stata la promessa di faremo il referendum, una domanda sul referendum, alla fine si sono fermati tutti. Però volevo dire una cosa, questi tutti erano, la sala era affollata, per il 90% dai 65 anni in su. Come la platea al Teatro Farnese quando ha presentato i comitati per il no. Una cosa, non c'era un ragazzo sotto i 25, e chi non aveva 65 ne aveva dai 45 ai 65 come me. Quindi davvero una platea molto anziana, una platea molto molto molto incattivita, per cui questa è stata una frase che si è sentita insomma distintamente, perché altrimenti hanno iniziato il battibecco tra le fazioni, è stato importante. A questa frase subito diciamo quelli del sì al referendum hanno detto ma mica ha fatto un comitato però dentro al partito, proprio il partito, il coro è stato questo, mica ha fatto il comitato poi dentro il partito. E quindi a me insomma lui è incattivito, cioè ha questa, insomma, quando sì, D'Alema palese, forse lo conosce meglio Chiara di me, infatti insomma, volevo chiederle perché insomma, quando ride è una risata sì, che fa paura molto, ecco, sì, quando sì, ridacchia sì, ecco. Sì. E appunto infatti a Chiara volevo dire perché c'è molta differenza tra il dissenso che esprime Bersani anche nei modi e quello che esprime D'Alema, che naturalmente è un dissenso legittimo all'interno di un partito, di un grande partito come il PD. Quindi Chiara, a te come sembra questa scelta sempre più netta di D'Alema ormai di essere schierato non solo per il no, ma anche di farlo in questo modo, come diceva Silvia, incattivito? Adesso incattivito, per carità, non critico, non è una critica a Silvia, è un giudizio su D'Alema. D'Alema è così, cioè o lo trovi divertente o lo trovi cattivo, il mondo si divide in due di fronte a D'Alema. In genere i cattivi sono divertenti, però non è una cosa non esclude l'altra. No, è vero, ma io invece non sono convinta di questa tesi della cattiveria di D'Alema, ma lo dico, diciamo, bisognerebbe fare una puntata su questo. Comunque, certamente si è messo in questa battaglia come fa lui, mettendoci tutta la faccia, mettendoci tutto e con la nettezza di toni, anche la efficacia comunicativa che penso tutti gli riconoscano. E certamente, come dicevi tu, è vero che c'è una differenza tra il no di D'Alema e la posizione in questo momento contrario al referendum della minoranza PD, diciamo quella bersaniana, di Bersani e degli altri. Questo, insomma, io credo che D'Alema avrà una efficacia, perché individua un problema che c'è, cioè purtroppo per il PD c'è una spaccatura su questo, c'è una parte della base storica, dello zoccolo duro del PD, d'alemiano e non solo, che questa riforma non la voterà e non la voterà indipendentemente da D'Alema, da Bersani, da Speranza, da Cuperlo, non la voterà perché il modo in cui Renzi ha posto la questione della riforma costituzionale non li convince. Senti, quindi Chiara, ci fermiamo, mi fanno solo segno, ci fermiamo un attimo per il traffico perché poi volevo anche proseguire negli ultimi minuti che tu riesci a stare con noi sulla presa di posizione di ieri della CGIL, che ha detto ufficialmente i suoi vertici: noi siamo per il no al referendum. Solo un attimo la pausa per il traffico. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna, Asiago 8-11 settembre. Vi presenta Mattino. Ancora buongiorno, buon venerdì da Giulia Crivelli. Stavamo parlando di referendum, non sappiamo esattamente quando voteremo, ma entro i primi giorni di dicembre, quindi si sta avvicinando, passerà molto in fretta questo tempo che rimane. E quindi appunto chiedevo a Chiara Geloni, che poi ci deve lasciare, un suo commento a questa presa di posizione di ieri della CGIL e dei suoi vertici, che poi ha anche subito precisato: poi naturalmente gli iscritti o i simpatizzanti sono liberi di votare come vogliono, però noi come vertici ci sentiamo di dire qual è la nostra posizione ufficiale. Come lo trovi come mossa, ecco, perché poi arriva abbastanza tardi, mancano appunto solo due mesi. Ma è perché è una mossa difficile, si ricollega un po' a quello che stavo dicendo prima della pausa. In questo referendum, al di là del giudizio che si può avere sul referendum, su Renzi, sul PD, su tutto quello che si vuole, il PD si trova dalla parte opposta, con tutte le prudenze del caso, rispetto alla CGIL e dalla parte opposta rispetto a un'associazione non qualsiasi come l'AMPI. L'AMPI, certo. Questo è un problema, a prescindere da come finirà il referendum, 52-48 per il sì, 52-48 per il no. Voglio dire, in questo io forse relativizzo un po' rispetto a certe interpretazioni che vedono il sì o il no come la fine della politica, la fine del renzismo, il suo trionfo definitivo. Dopo il referendum ci sarà forse una nuova Costituzione, in parte nuova o forse no, su cui potremmo avere un giudizio positivo o negativo, ma ci sarà, ancora più grave di adesso, un grande problema politico a sinistra, perché c'è un pezzo dell'elettorato del PD, del mondo della sinistra in generale che fa riferimento al PD, che non è d'accordo con questa vicenda politica, sì, nella quale la segreteria Renzi ha portato il PD. Certo, e alla luce, questo tra l'altro, è un grave problema che resterà. Certo, di questo che dici tu, proprio le parole che adesso sentiamo, che ha detto ieri Renzi, fuori dal PD non c'è una sinistra migliore, è un'affermazione abbastanza forte, perché appunto due, come dicevi tu, due sponde della sinistra, che sono da una parte la CGIL, il più grande sindacato italiano, e dall'altra l'Associazione Nazionale dei Partigiani, che sono in chiaro disaccordo con la posizione ufficiale del PD, insomma non è un problema da niente. Ma sentiamo Renzi. Fuori dal PD non c'è una sinistra migliore, fuori dal PD non c'è la rivoluzione del proletariato, fuori dal PD non ci sono le magnifiche sorti progressive. Fuori dal PD e fuori da questo PD c'è in Germania Alternative für Deutschland. Ecco, questo l'ho trovato un po' esagerato, cioè dire che o PD oppure un partito di estrema destra mi sembra davvero troppo forte come affermazione. Cosa dici, Chiara? Sì, che la vicenda, il paragone che Renzi fa con altre realtà europee, che come in Italia vedono avanzare le forze populiste, le forze in qualche caso di estrema destra, l'antipolitica, come vogliamo definirlo, non è del tutto giusto. Renzi dimostra di aver capito che c'è un problema, ma la rottura, che lui stesso ha chiamato rottamazione, di persone e di pezzi di storia della sinistra che lui ha compiuto. Io quando dico sinistra intendo anche non solo il PC, anche storie di persone come me che non vengono, che non hanno il problema della bandiera rossa o della tradizione comunista. La rottura che Renzi ha compiuto anche con l'Ulivo non è avvenuta in altri paesi. I partiti socialdemocratici europei non hanno compiuto un qualcosa di paragonabile alla rottamazione. Renzi, con le parole che ha detto ieri, che non a caso è andato a dire a Reggio Emilia, poi si è fatto le foto nello stand dell'Ampi, eccetera, è perché capisce, ha capito con qualche ritardo, perché ha perso diversi mesi dopo il risultato elettorale delle amministrative, che era stato un segnale molto forte e molto chiaro. Adesso dimostra di cominciare a capire che c'è questo problema. Vedremo se insomma sei in quelle tempo. Parole lì che ha detto non so se aiutino molto a risolverlo, perché come dicevi tu sono un po' fuori bersaglio. Senti, ti ringrazio tantissimo. Grazie, so che hai un altro è un impegno buona giornata allora. Grazie, ciao. Grazie. E Silvia, invece, proprio su questa questione della rottamazione dell'Ulivo, sì, e di quello che è venuto prima del partito che adesso del PD di Renzi, sentiamo solo un attimo D'Alema proprio su questo, che risponde alle accuse, e poi tu che appunto hai sentito puoi commentare meglio di chi riferisce queste, sì, di chi vede di insomma di seconda mano, ecco, queste informazioni. Ma sentiamo D'Alema. Buonasera, Chiara, che l'altra sera a parlare diceva che non capisce le ragioni del suo no alla riforma costituzionale. Sì. Deborah Serracchiani, e che lei volesse distruggere un partito e la sua leadership, come ha già fatto in precedenza col PC e con chi? PC. L'Ulivo è stato fatto distrutto, è stato trasformato nel Partito Democratico, diciamo, il PC decidemmo insieme di trasformarlo nuova sinistra, non ho distrutto niente io onestamente. Ecco, perché io trovo che sia interessante, per questo dicevo è importante che per me sentire la tua opinione, perché sentire anche come in queste feste dell'unità, qual è il vero, dicevi, dell'età media, ma qual è l'aria che tira, ecco. Ma guarda, l'aria che tira queste feste dell'unità me lo sono domandato proprio quelle di Milano, ricordandomi la prima a cui sono andata da ragazzina, c'era il coro dell'Armata Rossa ed era il Parco Sempione. Quindi, ma non tira una. Allora, se tira una bella aria perché c'è voglia di discutere e di parlare, se ne è visto ieri. Ed è però sempre positivo, mi sembra che si sia perso in quel partito, si siano persi i toni. Cioè, non esiste più un mezzo tono e subito si parte con la bagarre, è una cosa che sta davvero, secondo me, ferendo una parte di quel partito, ma stiamo parlando davvero di una parte di quel partito, una parte che probabilmente, a differenza appunto come diceva Chiara prima, ha la nostalgia, ecco, vive di una nostalgia, ma anche del Partito Democratico come era prima di Renzi, e non riesce ad accettarlo. E con tutta la veemenza che noi vediamo della passione politica, non riesce ad affrontare il dibattito sul referendum in un modo pacato, e vedo un partito con la febbre, e in questo momento c'è la febbre. E il medico che dovrebbe essere Renzi, insomma, forse il termometro gli si è rotto in mano. Sì, ecco. Perché anche quella prima parte dell'audio che abbiamo sentito prima, di dire la dittatura del proletariato, insomma, adesso non ricordo le parole esatte, è una, come dici tu, non è una discussione costruttiva, è una, proprio una reazione a catena, a parole così si arriva alla risatina di D'Alema, e dove si va? Sì, appunto, D'Alema, forse prima ho usato un termine troppo generico, della cattiveria, è proprio stizzito. Ieri il grande battibecco, l'ha detto Renzi, ha detto fa così perché hanno già dato l'incarico. L'incarico in Europa, certo. E come non pensarlo, però come non pensarlo, perché il Renzi di quell'incarico lì è lo stesso Renzi di adesso. E tra l'altro è un peccato, no? Perdere questo patrimonio di capacità di discutere al proprio interno. Le feste dell'unità erano nate anche per questo, e l'unità stessa, io mi ricordo, mi faceva effetto anche quando ero più giovane, vedere sempre fuori dalle sezioni dei partiti l'unità come giornale, sì, che veniva letto, cioè, ma per l'unità di oggi è una cosa completamente diversa, ma qui apriremo un altro capitolo. Però qui ha ragione Renzi, comunque dice noi il dibattito ce l'abbiamo, non abbiamo i blog, non abbiamo direttori, bisogna dargli atto, no? Che tanto sì, il dibattito sì, e sul referendum ho visto, perlomeno in quella festa, voglia di parlare c'è, poi i toni sono altri. E poi ha ragione Renzi, cioè noi ci accapigliamo, però discutiamo, e discutono persone vere, persone che a una certa età, eri con il caldo, alle 10:30, 11:00 hanno aspettato le 10:30, certo, per darsene verbalmente di santa ragione. Bene, e quindi sì, evidentemente qualcosa di qualcosa dovrebbe essere più giovane, ecco, forse. Senti Silvia, grazie, e insomma magari poi vi risentirete anche con Alessandro per aggiornarci, perché alcuni ascoltatori dicono non ci importa nulla del PD, però in realtà la questione è quella del referendum, e quella ci riguarda un po' tutti. Ancora grazie Silvia, una buona giornata a te. Noi ci fermiamo per il GR, ci risentiamo subito dopo con i giornali di oggi. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Mattino. Ancora buongiorno, buon venerdì da Giulia Crivelli. Siamo arrivati al momento della rassegna stampa dei quotidiani italiani. Come potete immaginare, la stragrande maggioranza delle prime pagine sono dedicate, in qualche caso proprio dedicate, perché non c'è solo il titolo principale ma i richiami ai commenti a quello che sta succedendo a Roma. C'è anche però chi fa scelte diverse, e come prima cosa comunque ringrazio tutti quelli che stanno mandando messaggi al 349-238-6666 o come sms o come whatsapp, e molti sembrano stufi di sentir parlare di Roma o del PD. In realtà però, se ci pensiamo, possono essere stucchevoli alcuni dibattiti, però Roma è la capitale d'Italia, capire dopo 3 mesi se veramente c'è una giunta che può cominciare a risolvere i gravi problemi della città credo sia importante anche per chi non abita a Roma. E ugualmente il dibattito sul referendum costituzionale, così legato alle divisioni del PD, visto che appunto di referendum costituzionale si tratta, credo che sia altrettanto importante. Ma vediamo la prima pagina del Sole 24 Ore, che invece va a un livello proprio sia micro che macroeconomico. Il titolo principale riguarda le dimissioni dell'amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, Fabrizio Viola, che ieri appunto ha deciso di lasciare la banca. MPS, oltre a essere la banca più antica del mondo, è la banca più in crisi sicuramente in Italia. è avviato un percorso di risanamento, e però per questo c'è poi il commento di Alessandro Graziani, che trovate, inizia in pagina 1 e poi trovate a pagina 3, scelta subito evitare speculazioni. E c'è anche, viene in mente l'episodio delle dimissioni della D di Unicredit qualche settimana fa, durante l'estate, che anche lui fece un passo indietro e non c'era pronto però un altro amministratore delegato, e quell'interregno non ha fatto bene né al titolo di Unicredit né in generale alla fiducia che si può avere appunto in una banca che resta senza amministratore delegato. Molto altro sul Sole 24 Ore, ce lo racconterà poi Mauro Meazza tra un pochino. Vi segnalo solo l'altro grande tema economico di ieri, l'intervento di Mario Draghi, governatore della BCE, che ha rinviato quello che viene definito il QE3, cioè il quantitative easing fase 3, e anche Draghi ha detto che non toccherà i tassi per ora. La prima pagina del Corriere della Sera: Roma, Raggi perde un altro assessore e il mini direttorio, tutte cose che avete sentito nel GR, di cui abbiamo parlato anche nella prima parte del Parlamento dalle 6:30 più o meno in poi. Vi segnalo quindi la fotonotizia, che è dedicata a quello che sta succedendo sul Monte Bianco. Speriamo che adesso che ormai fa luce e forse si sono diradate le nuvole si portino a compimento i soccorsi per queste 45 persone intrapolate nell'ovovia. E vi segnalo, ma perché appena ho sentito questa notizia mi è venuta in mente, credo che sia per molti un incubo quello di restare intrappolati appunto in una funivia, in un ovovia, in una cabinovia, o forse peggio ancora su una seggiovia perché fa ancora più freddo, un film del 2010 che si chiama Frozen, cioè congelato letteralmente, dove appunto si racconta la vicenda di tre ragazzi che restano per tutta la notte su una seggiovia perché sono stati di fatto dimenticati, nessuno si è reso conto che c'erano ancora loro su questa seggiovia. Quella non è una storia vera, per fortuna, però mi ricordo quando l'ho visto, da appunto questa sensazione di smarrimento, di paura anche di quello che sta succedendo, si è sospesi nel vuoto, nel freddo. Ma dal Corriere la sera vi segnalo anche il pezzo di Barbara Stefanelli, che è vice direttore del Sole 24, del Corriere della Sera, che presenta l'iniziativa che parte oggi e ci sarà poi per tutto il weekend a Milano, che si chiama Il Tempo delle Donne. È una 3 giorni di dibattiti intorno a tanti temi, anche se questa manifestazione si chiama Il Tempo delle Donne, credo che in realtà siano temi che interessano tutti. La Repubblica, la sfida di Raggi, no alle Olimpiadi. Ecco, la Repubblica sceglie di sottolineare questo aspetto perché ricorderete forse già mercoledì, nel famoso comizio di Nettuno, dove c'erano tutti i principali esponenti del Movimento 5 Stelle, Di Maio aveva anticipato questo no definitivo alle Olimpiadi. Ora parrebbe anche la posizione della Giunta. Ricordiamo però che non più tardi di settimana scorsa Virginia Raggi aveva detto: non ho ancora preso una decisione definitiva, incontrerò Giovanni Malagò, presidente del comitato della candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024, questo incontro ci sarà, non ci sarà, non si sa, però la maggior parte di chi ha raccolto le opinioni, i commenti, perché ripeto non c'è ancora proprio nero su bianco una posizione, ipotizza questo no definitivo alle Olimpiadi. Il Messaggero, crisi Raggi, un altro indagato, il riferimento naturalmente è all'assessore al bilancio De Dominicis, che era stato nominato da pochissimi giorni e che se ne andrà appunto, se n'è già andato, non entrerà mai in carica perché si è scoperto di questa inchiesta a suo carico per abuso d'ufficio. Anche qui la fotonotizia è dedicata alla cabinovia, che in realtà viene definita funivia, ma non è una funivia ma appunto una cabinovia in trappola a 3.000 metri. E poi questo è un sondaggio che ho visto solo sul Messaggero, ci si chiede in molti quale è già stato l'effetto di questa vicenda che coinvolge la giunta Raggi a Roma sull'elettorato dei grillini. Li ho chiamati grillini, in realtà è molto tempo che Grillo ha detto di non chiamarli più così, comunque insomma ci siamo capiti, elettori potenziali o coloro che già hanno votato Movimento 5 Stelle. Secondo il sondaggio SVG riportato dal Messaggero, Movimento 5 Stelle paga subito il caso Roma, crollo di 4,4 punti in 7 giorni, cioè dall'inizio di questa crisi della giunta Raggi. La Stampa, Roma scintille Raggi Grillo, questo è un retroscena, fa riferimento a un retroscena a cui faceva riferimento anche Silvia Brasca nella prima parte della trasmissione, perché questo virgolettato ce l'ha solo la stampa, e il virgolettato attribuito a Beppe Grillo è: questa qui è pazza. In particolare lo avrebbe detto perché il sindaco Raggi, dopo le dimissioni di De Dominicis, o meglio non era neanche entrato in carica, con quel passo indietro di De Dominicis che avrebbe dovuto sostituire Marra, che era il precedente assessore al bilancio che si è dimesso settimana scorsa, adesso lei lo vorrebbe ripescare perché non sembra esserci una valida alternativa. Il commento di Grillo appunto sarebbe: questa è pazza. L'Unità titola Caos Olimpico, e un titolo sì, fa riferimento alle Olimpiadi, ma forse anche nel senso di caos gigantesco, di dimensioni olimpiche. E infatti nel sommario si spiega: si dimette anche il direttorio, quel mini direttorio romano, e dopo 3 mesi di faide, bugie e delire indagati, Roma è sempre allo sbando senza governo. E poi viene riportato con grande enfasi anche le parole che abbiamo sentito più volte di Renzi, dette ieri alla festa dell'Unità di Reggio Emilia: non c'è sinistra oltre il PD. Vi segnalo sull'Unità, magari dopo approfondiremo un po' il tema, che lo scrive all'interno un breve corsivo, ma ci sono anche altri commenti altrove, che l'Unità, che è il giornale del PD, sta per cambiare direttore e anche probabilmente arriverà anche un nuovo amministratore delegato, perché il giornale che è stato rilanciato appena 2 anni fa è profondamente in crisi, con bilanci in rosso. Il Giorno: Roma, Raggi perde pezzi, quindi anche in questo caso, come vedete, moltissimi, anche questa prima pagina del Giorno dedicata alla vicenda di Roma. La fotonotizia appesi a un filo è quella dei passeggeri bloccati su questa ovovia, cabinovia del Monte Bianco. E però molto bello il richiamo in prima pagina alle Paralimpiadi, che sono iniziate ufficialmente ieri, l'8 di settembre, andranno avanti fino al 18. In questo caso c'è una cronaca delle gare che ci sono state ieri, la trovate a pagina 12 e 13, e poi vedremo anche la storia di questa atleta paralimpica con la sua hand bike, le biciclette che si appunto vengono azionate con le mani, quindi sono fatte come quella che usa Alex Zanardi per chi non ha più le gambe, che racconta la sua storia. La Gazzetta dello Sport, a questo punto vi cito, continua a fare un po' questa cronaca del fatto che la Gazzetta non sta seguendo con altrettanta attenzione rispetto ai giochi olimpici maggiori le Paralimpiadi. La prima pagina è tutta dedicata al calcio, c'è in realtà un accenno alle Olimpiadi, ma su quello, per la questione della candidatura di Roma al 2024, si va verso il no. Ore decisive per la candidatura olimpica, spiega la Gazzetta, che poi a pagina 30 però ci racconta anche la prima giornata di Paralimpiadi con il tedesco Markus Rahm, che ha 28 anni, ha solo una gamba e ha vinto il mondiale di Doha con la misura di 8,40 nel salto in lungo, e adesso spera di battere il suo record. Il Fatto Quotidiano: indagato pure il PM assessore, il riferimento è a De Dominicis, Raggi lo scopre e lo manda via. In prima pagina però anche la cronaca di una situazione che viene notata un po' da tutti man mano che passano i giorni, cioè il fatto che la Spagna sia da 8 mesi senza un governo, sia andata già una volta a elezioni anticipate, probabilmente dovrà andarci una seconda volta perché non si riesce a formare un governo. Però, come spiega il Fatto Quotidiano poi a pagina 20, quello strano paradiso della Spagna senza guida. Niente ministri da 8 mesi, ma il PIL cresce. Libero: la rivolta dei falliti. No, non i falliti del PD e neanche i falliti del Movimento 5 Stelle, scrive il giornale di Feltri in prima pagina. Urge una rottamazione azzurra. Un plotone di nominati da Berlusconi trama contro il nuovo leader di Forza Italia, Stefano Parisi. Lo accusano di essere anche lui arrivato nel partito non per meriti, ma per volontà di Silvio. È vero, ma almeno lui ha stoffa. Questa è l'opinione di Libero, che poi Vittorio Feltri spiega meglio nel suo articolo di prima pagina. Ci fermiamo però un attimo. Ci ritroviamo subito dopo con le pagine delle prime pagine dei giornali che non abbiamo ancora citato, e poi con qualche approfondimento. Mattino. Ancora buongiorno, buon venerdì da Giulia Crivelli. Finiamo di guardare le scelte che fanno i giornali per le loro prime pagine. Il Giornale si occupa della riforma fiscale o delle novità fiscali. Il titolo è "La beffa delle pagelle per pagare più tasse. I nuovi voti ai contribuenti non premieranno gli onesti, ma solo chi sborserà senza fiatare". Quindi una dura critica a questa riforma fiscale, questa parte della riforma fiscale che premia appunto chi rispetta le scadenze, ma come abbiamo visto, poi c'è tutta la parte degli studi di settore aboliti che abbiamo visto ieri sul Sole 24 Ore, di cui credo ci riparlerà Mauro Meazza tra poco. La prima pagina dell'Avvenire ha un titolo completamente diverso: "Oro rosso vergogna". Perché oro rosso? Perché si parla della raccolta dei pomodori a Manfredonia, del caporalato, e si scopre che non soltanto per caporalato in generale si intende lo sfruttamento di lavoratori, ma comunque maggiorenni. Si è scoperto che tra i lavoratori sfruttati ci sono anche dei minori, dei bambini. Nella baraccopoli di Manfredonia, 400 bambini tra la sporcizia. Anche se un ascoltatore mi dice che è giusto che la Gazzetta non parli delle Paralimpiadi, o almeno non lo faccia in prima pagina, perché quello che interessa ai suoi lettori è altro, io credo che sia molto difficile capire che cosa interessa ai lettori, perché i lettori sono tantissimi, e credo che siccome le Paralimpiadi ci sono una volta ogni 4 anni, forse un pochino più di spazio a questo evento che comunque ha tante componenti, anche una componente di autenticità dello sport, forse, è la mia opinione naturalmente, potrebbe essere dato. E lo fa l'Avvenire, adesso qualcuno mi accuserà di essere la voce ufficiale dell'Avvenire, non lo sono, così come non sono a Libro Paga di Renzi come pensa qualcun altro. L'Avvenire appunto, come ieri, ha 2 pagine richiamate in copertina sulle Paralimpiadi. Passiamo alle pagine interne dei giornali però, perché ci sono anche oggi tanti approfondimenti interessanti. Dal Corriere per esempio c'è un'intervista alla regina Rania di Giordania. Il virgolettato scelto per titolare questa intervista di Antonio Ferrari è "Dobbiamo alzare la voce contro i fondamentalisti". È un tema molto delicato che naturalmente è difficile da affrontare da qui, dall'Occidente, quello del ruolo che possono avere in particolare le donne come la regina Rania, con una grande visibilità mondiale, per sbloccare queste questioni dei diritti delle donne e non solo. La sovrana parla infatti in questa intervista di Islam, fanatismo, convivenza, religione, e su Papa Francesco dice "è un modello, lo ammiro". Sui profughi parla probabilmente del suo paese, dice "abbiamo accolto tutti ma non ce la facciamo più". Parliamo anche di terremoto, perché come ho detto anche nei giorni scorsi sono passate praticamente 10 giorni oggi, è già sparito dalle prime pagine dei giornali, ma il difficile inizia adesso con la ricostruzione, con il freddo che arriva. Goffredo Buccini ci racconta l'emergenza degli sfollati, e avete sentito anche nel GR il capo della Protezione Civile, che è lì nelle zone più colpite, sta raccogliendo i pareri, e la sua impressione è che tutti gli abitanti, anche se hanno perso la casa, faranno delle resistenze a essere trasportati altrove, e quindi a maggior ragione l'urgenza di trovare queste case temporanee che dovrebbero arrivare, si è detto, in 7 mesi, ma 7 mesi sono veramente tanti, e di mezzo c'è l'inverno. Poi vi segnalo, e non so se oggi c'è l'ascoltatore che mi dice, una mattina mi ha chiamata Gattara maledetta, e c'è una fotonotizia sul Corriere in questa pagina dedicata al terremoto, perché ieri è stato salvato un altro gatto, si chiama Pietro, è rimasto 16 giorni sotto le macerie. Siccome il lettore ieri mi diceva "smettila e vai a leggere Il Cavallo", io sono andata in edicola, non c'è un magazine che si chiama Il Cavallo, c'è però Cavallo Magazine, anzi Cavallo e Sperone e Il Mio Cavallo, e mi si è aperto questo mondo dei cavalli che conosco poco, e quindi così un po' tra il serio e il faceto vi segnalo su questo Cavallo Magazine di settembre un bellissimo profilo di Frankie Dettori, che è uno dei fantini più famosi al mondo, ha vinto 3.000 gare nella sua storia, e cadono 2 anniversari, quest'anno compierà 46 anni e poi tra 10 giorni compie 30 anni di gara. E invece sul Mio Cavallo c'è un servizio, anche questo altrettanto interessante per chi ama i cavalli o l'etologia in generale, su come interpretare la coda, non dei gatti ma i movimenti della coda dei cani. E chissà se ho reso felice il nostro ascoltatore. Dalla Repubblica vi segnalo un approfondimento su un'altra questione di ieri, che è l'annuncio del Regno Unito di voler costruire questo muro a Calais per cercare di impedire che i migrati clandestini passino o attraverso il tunnel della Manica, salendo sui tir, che hanno soprattutto una funzione commerciale, si spostano tra la Francia e il Regno Unito, oppure sui mezzi che invece navigano sulla Manica. I fondi stanziati sono circa 2 miliardi e il tunnel dovrebbe essere pronto già alla fine del 2016. Il reportage di Anaïs Ginori, che è la corrispondente da Parigi, dalla Francia, della Repubblica, è andata a Calais e ci racconta sui camion per Calais in attesa del muro inglese e soprattutto racconta il punto di vista degli autisti assaltati dai disperati, perché come vi dicevo questi immigrati clandestini cercano di usare questi tir e quindi da qui l'affermazione dell'autista: siamo assaltati da questi disperati e una soluzione potrebbe essere il muro. Molti dicono di no, soprattutto perché ha un valore simbolico non positivo questo innalzamento di un muro, però insomma vedremo, perché sappiamo che nessuno ha una ricetta per affrontare questa emergenza immigrazione. Se c'è già Mauro Meazza, però volevo che ci raccontasse un po', anche per cambiare un po' argomenti, tutto quello che c'è sul Sole 24 Ore di oggi. Buongiorno Giulia, eccomi qua. Buongiorno, ecco. Buongiorno. Ho sentito che ti stai appassionando agli studi di settore, che me ne compiaccio, perché anche oggi appunto su Sole 24 Ore trovi dei contenuti di questa, che è un progetto in realtà abbastanza lungo di revisione degli studi di settore, nonché un commento che ti segnalo a cura di Jean-Marie Delbo, come sai, responsabile delle pagine di Norme e Tributi del quotidiano, che parla di un parziale ritorno alle origini, perché infatti erano nati come uno strumento per misurare anche un po' l'efficacia delle piccole aziende e adesso si vorrebbe tornare a vedere di più in prospettiva, con addirittura andando indietro di 8 anni nella valutazione dei dati e nel comportamento del contribuente. Ma è tutto spiegato, guarda, pagina 7 del Sole 24 Ore, quindi studi di settore, l'addio riduce i dati da inviare al fisco, e già questo sembra una buona prospettiva. Ho sentito anche che hai richiamato il Sole 24 Ore per il discorso fatto da Mario Draghi ieri e le decisioni della BCE, che in realtà appunto ha confermato lo status quo per quanto riguarda i tassi, e poi c'è stata quella che sta diventando l'abituale tirata d'orecchi ai governi da parte del Presidente, e ne discutiamo, se ne parla molto diffusamente nelle nostre pagine iniziali. In particolare poi ha proprio spronato la Germania, che è quella messa meglio dal punto di vista del bilancio, a spenderli questi soldi per stimolare l'economia, giusto? E infatti è così, e sembra quasi avere un po' così dato un invito a Schäuble, che ha promesso di abbassare le tasse in Germania. Non vorrei che qualcuno pensasse che la cosa riguarda anche noi in Germania, perché loro hanno dei conti pubblici effettivamente migliori dei nostri, e quindi un rilancio anche degli investimenti è quello a cui ha invitato Mario Draghi. Sai che il venerdì sul Sole 24 Ore, non so se lo sai. No, non lo so. Non lo sai. Perché già ridacchi, perché già sai dove voglio andare a parare. Il venerdì sul Sole 24 Ore c'è moda, ci sono le pagine di Moda 24. Quest'oggi, tra l'altro, molto interessante, il servizio di apertura. No, non farlo. A firma di tal Giulia Crivelli, che non so se tu conosci, la collega Crivelli ci parla degli affitti parlavamo degli affitti degli studenti qualche giorno fa, questa volta invece sono affitti per le maison del lusso, i negozi, come dite voi, di moda, insomma i flagship store, quelli importanti. E tra l'altro, buona notizia per Roma, perché leggo sempre da Moda 24, le aperture di nuovi negozi del lusso in Roma tengono, vanno bene, insomma, un segnale di vitalità. E l'articolo è di Chiara Beghelli. L'articolo di Chiara Beghelli, bravissima collega di Roma, che sta sotto però quello di Giulia Crivelli, che io conosco peraltro, e forse anche altri. Senti, parliamo naturalmente anche di TAV, hai presente la TAV, perché a Torino hanno confermato il tracciato. E adesso si vedrà come la giunta Appendino, come esatto. Sai, Chiara Appendino, il sindaco, il mio sindaco di Torino ha già manifestato la sua contrarietà al progetto, e quindi ne riferiamo nelle pagine di Imprese e Territori, da leggere sempre scrupolosamente. Infine, anche se avrei molte altre cose da dirti, torniamo sull'assegnazione dei beni ai soci. Ora, io so che non riuscirò ad appassionarti al tema, però ti assicuro che per i professionisti, anche per le piccole imprese, ma anche quelle non tanto piccole, questa scadenza fissata a fine settembre sta preoccupando abbastanza. Ci sono anche diverse cose non chiare. Leggi religiosamente, come tutti dobbiamo fare, norme e tributi, oggi proprio nella prima pagina, e ti spieghiamo il tutto. Ecco, però prima di fare quello che devi fare, io adesso ti ricambio il favore, e perché ricordo che poi da martedì prossimo ci saranno le 10 guide pratiche che tu hai citato ieri, perché l'introduzione è tua, giustamente, il più competente, queste guide pratiche sulle tasse, giusto, da martedì? Sì, tasse non solo, si chiamerà i tuoi diritti, sono 10 fascicoli. Diciamo, conoscere le regole e sapere anche cosa fare quando qualcosa va storto, con le tasse, ma anche, che so, con l'auto, con la casa, per i contratti di lavoro e così via. Spiegheremo tutto via via poi nelle giornate. Devo salutare Emanuele, mi è stata fatta questa pressante richiesta, lo faccio volentieri, lo saluto, so che ci ascolta sempre, e a questo punto, cara Giulia, buona domenica, ma soprattutto traffico! Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna, Asiago, 8-11 settembre. Vi presenta... Mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Ha avuto molto successo la mia citazione di Cavallo Magazine, però, ma guarda un po', c'è sempre un però, ho sbagliato a pronunciare il cognome di Frankie. Io l'ho chiamato Dettori, invece è Dettori. Dettori, perché è sardo, il suo vero nome tra l'altro è Lanfranco, e questa, adesso a parte gli scherzi, ma è veramente, davvero mi si è aperto un mondo con questi magazine specializzati. Io quando vado in un'edicola in realtà sarei tentata di comprare tutto, e l'intervista è molto bella perché insomma questo è davvero un fantino eccezionale anche per l'età, e nell'intervista dice che non ha alcuna intenzione di smettere. Torniamo sulle pagine interne dei quotidiani. Oggi su Repubblica si racconta una vicenda che ha del paradossale, ma è anche molto triste, e ci riporta alla strage di Andria, allo scontro tra i treni che c'è stato in luglio, il 13 di luglio, lo scontro tra i treni in Puglia, tra quello che veniva da Andria e quello che veniva da Corato. Per i risarcimenti serve il biglietto, questo è stato detto alle vittime, è una richiesta cinica, viene definita così, che fanno le assicurazioni. La replica però delle assicurazioni è: in realtà stiamo seguendo le regole, vogliamo assolutamente evitare degli abusi. Molto interessante, anche curioso, un altro approfondimento che trovate nelle pagine interne della Repubblica, lo scrive Ettore Livini. Ci sono i big del trasporto di container che stanno avendo alcune crisi, e le grandi società, lo spiega con i numeri Ettore Livini nel suo articolo, a questo punto sono bloccate. E che cosa significa questo per noi che non siamo direttamente, apparentemente non direttamente coinvolti? È che ci sono i commerci mondiali in tilt. La Samsung, per esempio, per organizzare i suoi trasporti di dispositivi elettronici, ha noleggiato 16 aerei dovendo fare a meno dei container. Il titolo è molto suggestivo: dai giochi alla moda, la crisi dei container blocca i regali di Natale. Mancano quasi tre mesi, più di tre mesi a Natale, ma molti naturalmente dal punto di vista commerciale si stavano già organizzando. Vi segnalo, a proposito di Torino e della TAV e delle decisioni che dovrà affrontare il sindaco Chiara Appendino, un'intervista a Carlo Freccero sulla Stampa. Dice: tocca ad Appendino, e lei la leader perfetta del Movimento 5 Stelle. In questa intervista Carlo Freccero racconta le sue impressioni, appunto, dei tre mesi del sindaco di Torino, Chiara Appendino, confrontati con quelli del sindaco di Roma, Raggi. Secondo Carlo Freccero, che tra l'altro è stato scelto dal Movimento 5 Stelle per rappresentare in commissione RAI appunto le istanze del Movimento 5 Stelle, quindi non non può essere accusato di essere un oppositore del Movimento 5 Stelle. Secondo Freccero, la giunta guidata da Virginia Raggi e il sindaco stesso dovrebbero, a questo punto il sindaco dovrebbe fare un passo indietro e quindi trovare un sostituto e ricostituire una nuova giunta. Sempre su Chiara Appendino, un'altra pagina sempre sulla Stampa, sulla questione dei due saloni del libro, che purtroppo dimostra ancora una volta come in Italia sia molto difficile fare squadra, diciamo così, per semplificare, per dare l'idea di quello che voglio dire. Forse l'avete seguita questa vicenda: il Salone del Libro di Torino, che per tantissimi anni si è tenuto a maggio appunto a Torino, nei padiglioni fieristici dell'ex Lingotto. Non piaceva più di tanto agli editori, la maggior parte degli editori o comunque quelli più grandi sono a Milano, e adesso ci sarà questo secondo salone a Milano, probabilmente in aprile. Due saloni a distanza così ravvicinata potrebbero fare male, in realtà, anziché far bene all'industria del libro. L'inchiesta dell'Avvenire sul caporalato in Puglia, ve lo ricordo, la trovate poi richiamata in prima pagina, anzi è proprio il titolo di prima pagina dell'Avvenire, la trovate poi a pagina 5, Fango e pomodori, in Puglia l'inferno per 400 bambini. Un approfondimento anche sulle parole del capo della protezione civile Curcio, sempre sull'Avvenire, pagina 19, ed è interessante qui il dato su come stanno procedendo le verifiche per vedere quali edifici possono essere dichiarati agibili, edifici pubblici e privati. Per quanto riguarda le scuole, che è un po' l'emergenza perché a giorni dovrebbero riaprire anche le scuole delle Marche, sono state già verificate 480 scuole, il 70% sarebbe agibile. Vi segnalo sempre, invece non dall'Avvenire, ma ci spostiamo sul Fatto Quotidiano. Vi avevo accennato a questo reportage di Elena Marisol Brandolini da Barcellona sulla situazione politica della Spagna. Il paradosso magico della Spagna: senza testa si può vivere meglio. Senza testa, perché da 8 mesi la Spagna non ha un governo, perché non ci sono state maggioranze chiare nei 2 turni elettorali, probabilmente ce ne dovrà essere un terzo, e quindi appunto di fatto la Spagna è senza un governo da 8 mesi. Dal Giornale vi segnalo un articolo che il Giornale ha richiamato anche in prima pagina, perché con una sentenza della Cassazione si conferma la condanna a un padrone che isolava il suo cane dagli affetti della sua famiglia, e il titolo è: lasciare Fido solo in giardino adesso è un atto di crudeltà. È complessa dal punto di vista legale questa vicenda, perché sappiamo che in Italia noi non abbiamo un sistema di common law come quello dei paesi anglosassoni, quindi non è detto che necessariamente con una sentenza della Cassazione poi questo cambi in tutti i casi, in tutte le cause che potrebbero essere simili a queste, portino alla stessa decisione. Però è una decisione di peso, appunto, questa della Cassazione. A proposito di paesi che nel caso della Spagna stanno bene perché il PIL cresce, poi la Spagna, poi come tutti i dati andrebbero letti nella loro completezza, la Spagna ha anche un altissimo tasso di disoccupazione tra i giovani, non quanto quello che abbiamo in Italia, ma molto simile, però insomma il PIL cresce, in effetti cresce più di quello dell'Italia. C'è invece un altro paese che secondo Libero è un gran paese, ed è l'Australia, senza crisi nei clandestini. Nelle ultimissime classifiche sulle città più vivibili al mondo ci sono ancora una volta sia Melbourne che Sydney, quindi effettivamente ci sono dei dati che confortano questa tesi. Ma poi ce ne sono tanti altri, li cita tutti in questo articolo di Carlo Nicolato su Libero. Canberra, perché Canberra è la capitale dell'Australia, non conosce recessione da 25 anni, grazie a spesa pubblica intelligente e aggressività sui mercati, oltre al pugno di ferro coi migranti. E forse ricorderete che tra i tanti argomenti che si sono, e tra i tanti esempi che si sono citati di gestione dell'immigrazione clandestina in particolare, nei mesi passati c'è stato appunto anche l'esempio dell'Australia. Un velocissimo approfondimento dalla Gazzetta, perché oltre a parlare molto di calcio, di squadre di Serie A e di Serie B, c'è un articolo interessante sul primo quinquennio del nuovo stadio della Juventus. Così la Juve ha fatto scuola. Sapete che appunto la Juventus ha deciso di investire in questo stadio di proprietà, e è inaugurato nel 2011, da allora i ricavi sono quadruplicati. Sapete che una scelta simile era stata nell'aria anche a Milano, con, in questo caso l'avrebbero costruito Roma e Inter e Milan insieme. Per ora però non se n'è ancora fatto niente, vedremo se appunto lì la Juventus farà davvero scuola in Italia. Esempi di questo genere ci sono soprattutto all'estero, in particolare nel Regno Unito, cioè di squadre che si costruiscono il loro stadio. Era l'ultima segnalazione per oggi. Io ricordo a chi non l'aveva sentito che Alessandro Milan torna lunedì. Io ringrazio Peter Bescapè in regia, Lorenzo Nespoli in redazione. Vi do appuntamento a domani, per chi vorrà, alle 6:15 per la rassegna stampa europea. Poi ci sentiremo anche domenica, ma ripeto, da lunedì 24 mattina torna a essere il regno di Alessandro Milan. Ancora un buon venerdì da Giulia Crivelli.